Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Lei l'ho fatta mangiare. Finisco e c'è un signore soffuso che ha vicino a suo padre 10-12 metri di là, viene lì e mi dice: Presidente, io da 30 anni ho sempre votato comunista. Dopo averla vista qui e aver visto in lei così tanta umiltà e buona volontà, da questo momento in poi voterò sempre per lei. Quindi vado lì a conquistare. E questo, come non riconoscerlo, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, Silvio Berlusconi, che fuori da Cesano Boscone, dove va ai servizi sociali ad assistere gli anziani malati di Alzheimer, ha detto che insomma è riuscito a cambiare, a far cambiare idea politica e ideologia a un'anziana signora. Ma questo per dire che Berlusconi è ritornato a parlare non solo degli anziani di Cesano Boscone, è ritornato a riproporre il presidenzialismo, ha attaccato Napolitano. Di questo parleremo, questo per quanto riguarda l'aspetto politico. Poi ci sono anche delle novità sul delitto di Iara, ne parleremo in modo approfondito con un criminologo. E poi, se volete, oggi c'è stata la prima prova per 500.000 studenti, la prima prova di maturità, il tema di italiano. Sulla pagina Facebook vi ho messo alcune delle tracce. Quale tema avreste affrontato oggi se foste stati lì pronti per la maturità proprio questa mattina? Tra la poesia di Salvatore Quasimodo, Ride la gazza nera sugli aranci, oppure il dono, il saggio sull'ambito artistico letterario, il dono. Saggio per l'ambito socio-economico invece, le nuove responsabilità, poi quello di relativo a violenza o non violenza, violenza e non violenza nel Novecento, e poi il tema storico su Europa dal 1914 Europa 2014, le differenze, che credo sia un tema davvero impegnativo. E poi anche un tema di attualità su un brano di Renzo Piano che parla del rammendo delle periferie. Il nostro paese è bellissimo, dice, ma fragilissimo. Se avete voglia di fare un vostro commento, quale traccia avreste affrontato questa mattina? Ci sono sempre gli sms aperti per voi al 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì a vostra disposizione. Intanto però, che cosa è successo nella giornata? Ve lo riassumo adesso. Il governo stringe sulle riforme, Berlusconi annuncia presto contatti con il governo per un'intesa, Renzi chiede Berlusconi appoggi l'elezione diretta del Premier, intanto attacca Napolitano. Decreto IRPEF passa alla Camera, il bonus di 80 euro ora è legge, c'è anche il voto di SEL che si spacca. Debiti della pubblica amministrazione, l'Unione Europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia e scontro tra il governo e il commissario europeo Tajani. Il delitto di Iara, secondo la prova del DNA, l'accusato non è figlio del padre legittimo, cioè non è figlio dell'uomo che l'ha cresciuto. Iraq, il governo chiede agli Stati Uniti di intervenire con raid aerei. All'Italia i sindacati fanno sapere non accetteremo 2251 esuberi. E per i mondiali di calcio, in Brasile e la Spagna stasera si gioca tutto, intanto però l'Olanda batte l'Australia 3-2. Partiamo quindi dall'approvazione del decreto sull'IRPEF con 322 sì, 149 no, 9 astenuti. Il decreto IRPEF è stato definitivamente convertito in legge alla Camera e a sorpresa è arrivato anche l'appoggio di Sinistra, Ecologia e Libertà. Il decreto IRPEF è legge, 322 sì, 149 no e 9 astenuti, e lo diventa anche a sorpresa con i voti di Sinistra, Ecologia e Libertà, una decisione maturata ieri sera nel corso di una riunione infuocata che di fatto spacca il partito, tant'è che il capogruppo alla Camera Migliore ha presentato le sue dimissioni. Un decreto ricco di contraddizioni, ma che interviene su un disagio sociale straordinario, spiega Nichi Vendola, precisando che questo voto non è uno scivolo verso il governo, SEL resta comunque all'opposizione. Ogni volta che un provvedimento del governo andrà nella direzione giusta, noi lo valuteremo positivamente, ma resta un giudizio di fondo per il quale Sinistra Ecologia e Libertà è all'opposizione. Tra le principali novità del decreto, il bonus da 80 euro già erogato nelle buste paga di maggio per i dipendenti con reddito sotto i 26.000 euro, confermato per la RAI il taglio di 150 milioni di euro, riduzione dell'IRAP di un 10% nel 2015 con una fase progressiva nel 2014, e nel provvedimento entra anche il rinvio al 16 ottobre del pagamento dell'acconto TASI per i comuni in ritardo con le delibere delle aliquote. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Berlusconi, come vi dicevo, torna all'attacco sia sul presidenzialismo che contro il presidente Napolitano. Torna Montecitorio, attacca il capo dello Stato, lancia il presidenzialismo, chiede un incontro con il governo sulle riforme, si scaglia contro Beppe Grillo. Silvio Berlusconi indice una conferenza stampa con Forza Italia, sempre più divisa, ma di cui è ancora il leader. Il Cavaliere se la prende prima di tutto con Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato negli ultimi decenni si è trovato a svolgere sempre di più un ruolo di supplenza emergenziale, che è però indiscutibilmente una distorsione, a mio parere, patologica. Il problema è che oggi il capo dello Stato non ha una legittimazione popolare. Ecco perché in sostanza è bene per i cittadini scegliere direttamente il capo dello Stato. Non strappa Berlusconi, annuncia un incontro tra Paolo Romani e Maria Elena Boschi, poi confermato dallo stesso ministro. Ma sulla legge elettorale è lapidario. È chiaro che l'Italicum è insabbiato. Dopo l'apertura della Lega sulla proposta proporzionale dei 5 Stelle, interviene il ministro Boschi. Possiamo discutere con i 5 Stelle, ma devono rimanere gli obiettivi cardine della riforma elettorale. In particolare dobbiamo avere la certezza di un vincitore. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E la Commissione europea oggi ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha provocato questa procedura di infrazione uno scontro tra il governo e il commissario europeo Tajani. Dopo le minacce, Bruxelles passa ai fatti e mette in mora l'Italia per i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Per la Commissione europea, da noi le imprese non vengono pagate nei 30-60 giorni previsti dalla direttiva europea sulla materia, ma con ritardi che arrivano fino a 210 giorni, di qui la decisione di avviare la procedura di infrazione. Una mossa accolta con sorpresa dal ministro dell'economia Padoan. Se c'è una cosa che il governo italiano ha fatto e anche il precedente governo italiano hanno fatto, è quella di dare una decisa spinta proprio in ossequio alla richiesta europea al pagamento dei debiti della PA. Quindi trovo che questa procedura di apertura di infrazione sia incomprensibile. Il caso alimenta polemiche anche perché a proporre l'apertura della procedura è stato il commissario all'industria Tajani, che a giorni si dimetterà perché eletto con Forza Italia nel nuovo Europarlamento. Il sottosegretario Gozzi lo accusa di aver utilizzato il suo incarico per fare politiche di parte e colpire il governo Renzi. L'avvio della procedura era inevitabile, replica Tajani, ospite di Focus Economia. La direttiva comunitaria dice che ogni pubblica amministrazione che non paga entro 30 giorni deve pagare una mora dell'8,15%. Certo. Quindi questa lettera di messa in mora aiuta l'Italia, permette all'Italia di risparmiare denaro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi continua a essere sempre in primissimo piano la vicenda del delitto di Iara. Si terrà domani mattina davanti al GIP, alla GIP di Bergamo, Ezia Maccora, l'udienza di convalida del fermo di Giuseppe Bossetti, fermato lunedì, vi ricordate, per l'omicidio di Iara Gambirasio. Oggi l'uomo davanti alla PM Letizia Ruggeri si è avvalso per la seconda volta della facoltà di non rispondere, ma in serata è arrivata una novità di cui poi parleremo tra poco. Ora all'Italia la trattativa fra la compagnia e i sindacati sugli esuberi va avanti, ma i sindacati mettono in chiaro che non accetteranno mai 2251 licenziamenti. Questo è quanto emerso dall'incontro di oggi tra aziende e sindacati, che si sono dati appuntamento per un nuovo incontro domani alle 15 con piloti e assistenti di volo. Spostiamoci all'estero, continua la guerra civile in Iraq. Il governo iracheno chiede ufficialmente agli Stati Uniti di intervenire con dei raid aerei contro i fondamentalisti, ma il presidente Obama per ora li esclude. Nel frattempo le principali compagnie petrolifere occidentali stanno evacuando dal paese il proprio personale. Torniamo in Italia con la cronaca. Nuovo scandalo all'ospedale Pertini di Roma, dove una donna ha scoperto che il DNA del feto che porta in grembo non è compatibile con il suo. Abbiamo cercato di avere un figlio per 10 anni, ma ora siamo piombati in un incubo, ha raccontato il marito della donna. Il caso segue tra l'altro i pochi mesi, vi ricordate, quello venuto alla luce lo scorso aprile, quando una donna si trovò ad avere in grembo gli embrioni di 2 gemelli fecondati da un'altra coppia. Cambiamo argomento, per domani a Roma all'Auditorium Conciliazione si terranno gli Stati Generali della Cultura organizzati dal Sole 24 Ore. La parola chiave è valorizzare il patrimonio, ora o mai più. Tra gli altri interverranno il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini, la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, il Sindaco di Torino Piero Fassino, il Direttore di Sole 24 Ore Roberto Napoletano, oltre ai principali operatori culturali italiani. Ora invece diamoci al Brasile, a Dario Ricci, ci colleghiamo direttamente con lui. Dario. Eccomi qua, Roberto. Caro, so che devi seguire. Sì, sì, ripeti il nome che tanti non riescono a pronunciare della cittadina dove ti trovi, sì. Tu. Sì? la maglia rapida, ritiro azzurro, ma si toglie aggiornamenti sulla partita del momento. Spagna-Cile, certo. Siamo all'undicesimo del primo tempo, a Rio de Janeiro siamo sullo 0-0, partita decisiva per la Spagna che o vince o è fuori dal mondiale, visto anche il successo dell'Olanda nello stesso raggruppamento nel pomeriggio per 3-2, un successo sofferto sulla strada. E infatti, scusa Dario se ti interrompo, dico però l'Australia si è difesa bene, chi l'avrebbe detto, no? 3-2. No, ma l'Australia, i canguri, come sai, per isole sono animali molto combattivi e quindi si sono dati da fare. Sì. L'Olanda dovrebbe essere forte, invece ha vinto solo per un punto. Scusa, invece la Spagna, dicevi, si gioca il tutto per tutto perché ha perso 4-0 quanti giorni fa? No, gara 5-1. 5-1, scusa, se tutti questi numeri. Qualche giorno e perdo i contatti con la realtà. Sì. Infatti, comunque, no, insomma, una debacle, in breve una debacle è stata, dai, quella della Spagna, no? Quindi stasera sono cavoli amari, diciamo. È chiamata la vittoria, e finora però il Cile che sta facendo meglio, ma il risultato ancora di 0-0 al Maracanã di Rio de Janeiro. Senti, invece adesso Dario ti lasciamo allora la conferenza stampa di Prandelli, poi ci racconti dopo che cosa dice. No, anche c'è una conferenza stampa di Thiago Motta, tra l'altro italo-brasiliano, centrocampista della nostra nazionale, e sì, tra poco dopo vi ragguaglierò su cosa ci dirà. Anche perché vedo che si ferma Barzagli, quindi anche qui ci devi dire se è una grossa perdita, se mette a rischio. No. Guarda, abbiamo per Barzagli proprio notizie freschissime, ma terapie conservative. Lui ha dei problemi ai tendini che l'hanno condizionato per tutta la stagione, quindi fa delle terapie particolari. Ora, appunto, molto probabilmente segue un regime diverso, ma non è detto che non ci sia con Costa Rica, ecco. Ha fatto delle terapie conservative, diciamo che la scelta, comunque, dalle informazioni che abbiamo, sarà esclusivamente tecnica ed esclusivamente di Prandelli, non per motivi fisici, ecco. Va bene, caro Dario, allora dopo, così ci ragguagli su altri dettagli. A dopo. Invece adesso vi aggiorniamo, se state viaggiando, stavo guardando, a proposito di debiti delle pubbliche amministrazioni, Del Rio dice Tajani è mosso da motivi politici. Questa è una dichiarazione molto forte, perché sapete che Tajani, commissario europeo uscente, ha detto, appunto, ha sollecitato questa procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato pagamento, diciamo, complessivo, totale, perché in parte è stato fatto dai debiti della pubblica amministrazione. È stato accusato di voler lanciare del veleno sul governo Renzi. Questo è un po' lo scontro in questo momento, e Del Rio ha proprio fatto questa dichiarazione: il braccio destro di Renzi, ha detto Tajani, è mosso da motivi politici. I vostri messaggi al 349-238-6666, se volete, sulle tracce della maturità, o anche alla pagina Facebook di Effetto Note, e anche sugli altri argomenti, che sono tanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi qua, vedete, pochi istanti, tra poco vi ricordo quali sono state le notizie più importanti di oggi. Vedevo già sulla pagina Facebook alcuni che hanno detto qual è la loro, quale sarebbe stata la traccia preferita oggi, il tema da affrontare nella prova di maturità. Massimiliano dice violenza e non violenza nel Novecento, questo è il tema che sceglie. Franco invece esce un po' dal seminato e anche dall'argomento, dice: a proposito di esami di italiano, che fine ha fatto la legge che imponeva agli immigrati di conoscere lingua e storia del paese che li sta accogliendo? Non so se proprio imponeva la lingua, probabilmente, la storia mi sembra un po' strano, ma vedrò se avrò il modo di verificare. Adesso però vi ricordo quali sono state le notizie più importanti della giornata. Renzi dice a un passo dalla chiusura dell'accordo sulle riforme, Berlusconi fa sapere rispettiamo gli impegni, intanto si forma nel Parlamento europeo il gruppo Farage-Grillo. E poi Baghdad chiede l'intervento degli Stati Uniti con dei raid aerei, si rafforzano i venti di guerra, le raffinerie sono nel mirino dell'Iraq, per il momento gli Stati Uniti dicono di no, escludono i raid aerei. L'Unione Europea apre una procedura sui debiti della pubblica amministrazione, quindi si crea questo scontro tra governo e Tajani. Vi dicevo poco fa la dichiarazione di Del Rio che dice Tajani è mosso da motivi politici. Nel tema di maturità, Quasimodo e le periferie di Piano, di Renzo Piano, anche violenza non violenza nel Novecento e tecnologia pervasiva, qual è la vostra preferita? Poi Iara, Bossetti chiuso nel silenzio, non parla alla PM, la palestra nel mirino, il presunto assassino non risponde, ai PM domani probabilmente ci sarà la convalida del fermo. E poi per i mondiali, per la Spagna è già sfida dentro o fuori, insomma non è che abbia molta scelta stasera. Poi ci aggiorneremo ancora sui mondiali, ma adesso vi dicevo della novità che riguarda la vicenda di Chiara Gambirasi. Adesso in realtà approfondiamola. E saluto allora il professore Ernesto Savona, professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano. Professore, eccoci qua. Ben ritrovato, professor Savona. Buonasera o buongiorno, dipende tutto di lì. Professore, mi dica una cosa. Allora, naturalmente sa bene della vicenda di Chiara, solo che avrà sentito che ci sono state delle polemiche nelle ultime ore, anzi quasi subito dopo l'annuncio del ministro Alfano. Beh, un annuncio del genere fatto da un ministro dell'interno, cioè di aver trovato l'assassino, il colpevole di un delitto, è una cosa che non succede molto di frequente, però è stato criticato per il fatto che l'ha dato per scontato come assassino, come colpevole, perché molti hanno ricordato c'è il diritto costituzionale della presunzione di innocenza. E quindi però allora vogliamo dire, certo, questo è un diritto costituzionale, è anche un rito, un rituale giuridico, come lo vogliamo chiamare, un'espressione doverosa, però che cosa significa? Che il DNA può sbagliare? Una prova scientifica che è stata riferita dagli inquirenti, definita come una certezza assoluta, può essere invece controvertibile, confutabile? Diciamo che indipendentemente da questo, forse l'annuncio del ministro è sempre non troppo garbato, come direte, no? Quindi questa è la parte. Il DNA è sicuramente una prova molto forte se messa insieme con tutta una serie di altre cose che risultano dalle investigazioni, nel senso che questa tecnologia sicuramente ci produce grandi risultati, che di dietro c'è tutta una investigazione, come in questo caso è stata fatta, in modo decisamente appropriato. Ci ricorderemo che grandi casi giudiziari nel passato, anche solo DNA, è stato smentito sulle procedure di raccolta, nel senso che dei buoni avvocati in America, dove il DNA viene usato in modo anche abbastanza diffuso, hanno potuto provare che il modo in cui era stato raccolto non era appropriato e quindi l'imputato di assassino è stato prosciolto. In questo caso non è successo, mi sembra che le investigazioni sono state fatte molto bene e il DNA è la prova regina. Questo vi dico indipendentemente dall'annuncio di un ministro che probabilmente dovrebbe stare un po' più attento, perché questo riguarda altre sfere. Però secondo me siamo nella situazione buona. Poi è chiaro che la difesa cercherà di contestare le procedure di raccolta, l'inquinamento della prova del DNA e altre cose di questo tipo, ma credo che qui chi ha fatto il prelievo del DNA, chi l'ha gestito, siano persone decisamente competenti. Infatti, insomma, corpi specializzati dei carabinieri, la polizia, investigazioni di 3 anni e mezzo, diciamo che c'è grande dispendio di energie e di soldi, c'è stata una ricerca scientifica investigativa davvero di grandissimo livello. Però, professore, quindi carabinieri e polizia stanno intensificando comunque le verifiche, interrogando familiari, amici, conoscenti, sia della famiglia della povera Chiara, sia del presunto colpevole Giuseppe Bossetti. Ci sono sempre gli specialisti del ROS, della polizia, che fanno la spola tra Bergamo e i paesi della provincia, ricorrono ogni indizio perché sanno che è una fase molto delicata questa. Oggi è stato interrogato Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di 43 anni accusato appunto dell'omicidio di Chiara. Per il momento non si decide a fare dichiarazioni, si avvale sempre della facoltà di non rispondere. Lei, di fronte a questa cosa, che idea si è fatto? Oltre che essere un diritto naturalmente di un indagato, ma sì, stiamo parlando sempre di un presunto colpevole, certo, e non di un colpevole. Credo che la coppia tra buone investigazioni e tecnologia abbia dato dei buoni risultati. Ho la sensazione, ripeto, la sensazione che in giudizio, senza una confessione da parte del presunto colpevole, ci sia un po' di dibattito, però come sempre vanno in questo caso, se le procedure sono state fatte bene, dovrebbe avere un esito positivo. La distanza è grande, il presunto colpevole, ammesso che sia lui, e dobbiamo sicuramente sempre dire ammesso che sia lui, oramai ha già rimosso, tolto, eliminato ogni ricordo di colpevolezza su queste cose, quindi si difenderà. Certo, il fatto che lui non rilasci dichiarazioni è un sintomo che la situazione per lui è un po' complicata. Trovare degli alibi, dei testimoni è molto più complicato, ma io credo, e questa è la mia opinione personale, che siamo davanti siamo nella strada giusta, ecco, per dirla così. Professore, tra l'altro lei sa che nonostante la madre di Massimo Giuseppe Bossetti, Ester Arzufi, 67 anni, che è stata messa sotto pressione molto nelle ultime ore, nonostante continui a dire che è figlio legittimo di suo marito, cioè di appunto il padre di Bossetti, il marito di Ester Arzufi, adesso c'è questa novità che è stata effettuata la comparazione tra il DNA di Giovanni Bossetti e quello del figlio legittimo, considerato legittimo, Massimo Giuseppe Bossetti, cioè colui che è accusato del delitto. L'esame ha evidenziato che non c'è compatibilità tra i due profili genetici e che quindi l'uomo accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio non è figlio naturale del primo. Quindi, le dicevo, nonostante la madre continuasse a negare questa relazione clandestina, come la vogliamo chiamare, nel passato, di cui è frutto lui e la sua gemella, adesso è stato dimostrato che il padre di Bossetti in realtà, tra virgolette, è un patrigno, nel senso che il vero padre è proprio quello di cui è stata recuperata la salma, Guerinoni, no? Giuseppe Guerinoni. Sì, infatti questa prova disconosce la paternità, diciamo che la legittima, tra virgolette. La prova del DNA si usa nel caso di riconoscimento o disconoscimento di paternità proprio per trovare la compatibilità o non trovarla. In questo caso disconosce il padre legittimo, non dice, ma la connessione è stata già fatta con Guerinoni precedentemente, quindi siamo di fronte a un test che rafforza la pista degli investigatori. Di fronte a queste cose è sempre più difficile contestare che il presunto colpevole non sia il colpevole effettivo, però questo lo vedremo in giudizio. Certo, questo. Quindi professor Savona, a questo punto dicevamo, si sconvolgono davvero diverse famiglie, anche qui l'ostinata volontà della madre di Bossetti, Ester Arzufi, di voler salvaguardare il suo passato, la privacy, un colpo di testa che può aver avuto, una relazione insomma comunque al di fuori del matrimonio. A questo punto anche queste cose vengono portate alla luce, c'è ormai poco da nascondere, insomma. Purtroppo è vero, non si può difendere la privacy di fronte a un omicidio così rilevante. Si attutiscono quei diritti rispetto ai diritti di giustizia. Potrebbe darsi che il padre non ne fosse consapevole, in questo caso certamente c'è una rottura di un vincolo precedente. Non tutti i padri sanno di essere il vero padre, lo prosumano, ma poi alla fine queste scoperte, e non è la prima e non sarà l'ultima, si fanno nel corso della propria traiettoria di vita. Perché in genere mater certa est, il padre non sempre. Sì, no, certo, questo convalida questo assunto. Sicuramente questo convalida però un'altra cosa, che la pista investigativa rispetto al presunto colpevole è ancora più valida, perché questa è una prova sicuramente a confermare la traccia investigativa. Vediamo cosa succede alla fine. Credo che gli investigatori abbiano raccolto le prove necessarie per incriminare il presunto colpevole. L'hanno fatto con molta prudenza. Una volta trovato il nesso tra il DNA, la prova su Yara, e poi risalire a chi portava quel DNA, abbiamo ricostruito tutta la vicenda abbastanza bene per arrivare a sostenere l'accusa in sede di giudizio. È per questo che hanno protestato su quella dichiarazione del ministro che tendeva a mettere un po' allertare il presunto colpevole. Però, è qui la situazione, cioè meglio essere prudenti fino a quando non si è raccolto tutto. Certo, senta, intanto dal verbale rilasciato, insomma dall'interrogatorio della moglie di Massimo Giuseppe Bossetti, la moglie non gli fornisce un alibi per la sera del delitto. Uno può dire è difficile, certo, ricordarsi quella sera del 2010 cosa facesse, ma dicono è un paese piccolo, la notizia è circolata immediatamente, è strano che non si ricordi in quel momento che cosa facevano, dove erano lei e il marito. Quindi pensano gli investigatori, almeno questo da indiscrezioni di stampa, che lei possa sapere tutto, ma cerchi, forse sta cercando di prendere delle distanze da lui, né nel difenderlo a tutti i costi, né, insomma, dicendo io non ricordo, non so. Sai, in questa cosa ci sono famiglie che vengono compromesse, ripeto, capisco la moglie, capisco la madre. Si tratta di capire poi le esigenze di tutela verso chi vanno. In questo caso c'è Yara, la sua morte tragica e i genitori di Yara che vengono prima di ogni cosa. E quindi è lì che occorre investire e chiarire cosa è successo. Devo dire che alla fine questa coppia tra investigazioni e tecnologia ha dato risultati ottimi e questo rassicura tutti coloro che non credono che questo sia possibile e utile per il futuro. È lì che dobbiamo investire un pochino. Professore, è vero come ha detto qualcuno che se fosse stato lui, diciamo, un uomo di 40 anni, 43 anni, no? Che ha compiuto un delitto del genere, qualcuno ha detto è difficile che possa aver colpito per la prima volta, uno non si sveglia a quell'età per compiere come predatore sessuale solo così tardi. Ci può essere qualche precedente, quindi se ci fossero testimonianze, qualche altra donna o ragazzina potrebbe avvalorare ulteriormente, oppure magari invece mettere il dubbio. È vero? Questo è vero, ci possono essere stati segnali precedenti, si tratta di individuarli e raccoglierli e non è cosa facile. Nessuno va raccontando in giro che ha avuto delle molestie. E poi quali sono i segnali giusti per incriminare questa persona? Certo, è importante, però in questo momento ci abbiamo soltanto questa prova di DNA e le investigazioni di dietro. Se potessimo ricostruire anche delle situazioni di rischio che questa persona ha creato, sarebbe sicuramente meglio. Professore, ancora un professor Savona, questa domanda le voglio fare. Purtroppo si sono saputi appunto da dettagli che la povera Yara, insomma, è stata seviziata, c'è stata una grande crudeltà, accanimento nei suoi confronti. Perché proprio su di lei, secondo lei, professore, perché con tanta violenza? Ma guardi, credo che da quello che ho letto nei giorni di oggi, che venivano dall'Italia, questa persona la guardava già da tempo. Sì, girava così intorno, sembra, no? Da testimonianze. Diciamo che se l'avesse già adocchiata, probabilmente si aspettava una reazione diversa, dove diversa tra virgolette cosa significa condiscendente, non si sa che cosa volesse fare, sicuramente non una molestia sessuale ma qualcosa di più. E quando la vittima reagisce violentemente, l'aggressore diventa violento altrettanto. Questo è il rischio, cioè si scatena un circuito di violenza tra vittima e aggressore che porta poi a situazioni di questo tipo. Professore, quindi concludendo, non ci resta altro che aspettare ulteriori dettagli e ulteriori indagini, naturalmente, per poi evidentemente vedere se si arriverà a un rinvio a giudizio oppure no. Io credo che siamo davanti a un esempio, le ripeto, di buona investigazione e di buona tecnologia ben applicata, quindi in questo caso diversamente da altri dovremmo andare sulla strada giusta. Vediamo se poi le prove verranno sostenute in giudizio. Però certo, dopo tanti anni questo è un successo delle forze dell'ordine e ripeto anche delle tecnologie. Davvero. Tanti anni fa non l'avremmo avuto, questo sicuramente non l'avremmo avuto. Grazie professore Ernesto Savona, la ringrazio, le auguro buona continuazione. Grazie a lei, arrivederci. Dal Messico parlava il professore, per questo all'inizio ho detto buonasera, buongiorno, non sapeva neanche lui, perché sono più o meno 7 ore di meno. Adesso invece, a proposito di altre parti del mondo, sappiate che il Cile ha fatto un gol alla Spagna, che rischia tantissimo. La Spagna, chissà che è successo quest'anno, insomma, dopo la prima sconfitta, ora se non recupera credo sarà una partita molto tesa. Comunque vi dicevo, poi sentiremo ancora dai Ricci dal Brasile e ci aggiorniamo. Guardiamo anche i vostri messaggi prima di prenderci una pausa di pubblicità. Dice per esempio un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, mettete, dico sempre, anche uno pseudonimo: il partito di Tajani negli anni ha fatto della scorrettezza e dello sgambetto politico il proprio marchio di fabbrica. Nessuno stupore, dice, a proposito della procedura di infrazione, sapete, vi dicevo, di questa contrapposizione tra governo e Tajani. Estremamente vergognosa, dice invece Tina, l'affermazione di Del Rio. Tajani ha semplicemente spiegato a cosa andrà incontro l'Italia, visto che la sanzione è già stata confermata. La sinistra non si smentisce mai. Quindi avete visto due messaggi completamente contrapposti. Ringrazio Beatrice del suo messaggio. Poi invece Andrea scrive sulla vicenda di Yara: la prova del DNA ha sancito che quel DNA è di Bosetti, ma non che Bosetti è colpevole. Per questo Alfano ha sbagliato. Su questo abbiamo già detto, anche se in ogni caso quella traccia è sua, di quella macchia di sangue sugli slip della povera Yara, almeno dovrà spiegare come mai si trova lì una traccia del suo DNA, come minimo. E poi anche Nicola da Padova: non basta una macchia per stabilire che è stato lui l'assassino, Alfano ha voluto fare bella figura alla disperata ricerca di consenso per il suo partito. Adesso io direi di prenderci questa pausa di pubblicità, voi continuate naturalmente con le vostre riflessioni, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure sempre appunto attraverso gli sms al 349 238 6666. Dopo, tra le altre cose, parleremo di maturità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, le notizie certamente ve le ricordo adesso, guardavo ancora i vostri messaggi fra gli altri sul tema, sulla politica. Rosetta dice: a proposito delle tracce che sono state date oggi per il tema di maturità, dice: il dono avrei scelto questo argomento anche se non sarei stata capace di trattarlo nella forma richiesta. Beh, era nella forma tua, Rosetta, sono rimasta al vecchio tema che è fuori moda. Poi tra poco qualcuno di competente ci spiegherà davvero se il tema vecchio tema è fuori moda oppure è sempre di attualità. Ma adesso vi ricordo quali sono stati i fatti più importanti della giornata. Il governo stringe sulle riforme, Berlusconi annuncia presto contatti con il governo per un'intesa e chiede a Renzi che appoggi l'elezione diretta per il presidenzialismo, anche se vedevo che Renzi dice insomma per il momento è troppo presto. Intanto Berlusconi attacca Napolitano. Decreto IRPEF passa alla Camera, oggi il bonus di 80 euro ora è legge, c'è anche il voto, c'è stato il voto di SEL che però si spacca il partito su questo voto. Debiti della pubblica amministrazione, l'Unione Europea apre una procedura contro l'Italia e si crea questo scontro tra il governo e il commissario europeo Tajani. Abbiamo detto prima della dichiarazione di Del Rio, braccio destro di Renzi, che ha detto è stato mosso Tajani da motivi politici. Il delitto di Yara, ne abbiamo parlato in modo molto approfondito poco fa, secondo la prova del DNA l'accusato non è figlio del padre con cui è cresciuto. Iraq, il governo chiede agli Stati Uniti di intervenire con raid aerei, anche se Obama per il momento lo esclude. All'Italia i sindacati fanno sapere non accetteremo 2251 esuberi. Poi vi ricordo che è in corso lo sciopero di 36 ore dei benzinai, ricordate questa cosa. I mondiali di calcio in Brasile, la Spagna, stasera si gioca tutto, per il momento si gioca male il tutto perché sempre 1-0 per il Cile, mentre l'Olanda ha battuto l'Australia 3-2. Ma adesso tuffiamoci nel prossimo argomento. Saluto subito Roberto Carnero, che qui con me è venuto a trovarmi. Ciao Roberto. Buonasera. Che è insegnante, giornalista, scrive di letteratura italiana per la Domenica del Sole, il cosiddetto domenicale, ma è soprattutto è presidente di commissione d'esame di maturità. Quindi chi meglio di lui che fresco fresco di questa mattina degli esami di maturità, Roberto? Eh sì, insomma, lo scritto italiano è proprio l'inaugurazione dell'esame per quanto riguarda i ragazzi, ma anche poi per noi commissari che prendiamo appunto conoscenza delle classi che ci vengono affidate. Che cazzo ti è stata affidata? Perché tu sei insegnante di liceo. Insegno sia al liceo Virgilio di Milano, italiano e latino, ma sono presidente di commissione all'Ipsia di Monza, un istituto professionale. E ovviamente c'era un po' questa emozione questa mattina nei ragazzi come consuetudine, e una volta era un po' più tutto scenografico, arrivavano i carabinieri con le buste del plico, no? adesso invece arriva tutto per via telematica, il cosiddetto plico telematico. La procedura ha funzionato perché l'incubo quindi di cosa ogni... c'è un computer connesso col ministero, collegato col ministero, da cui arriva attraverso letteraci, una password i titoli, esatto. Ovviamente l'incubo di qualsiasi presidente di commissione è che non ci sia qualche malfunzionamento del sistema. Invece tutto è andato regolarmente. Che a volte nelle scuole qualcosa di vecchiotto c'è, diciamo. Eh sì, no? Perché si sta molto innovando nella scuola, il registro elettronico, appunto anche la maturità, c'è cioè questa commissione web si chiama, il portale del ministero che gestisce appunto i lavori delle commissioni, anche i verbali. Il problema è che spesso questo sistema si pianta, come si dice, cioè tu sei lì che stai cercando di compilare i campi e si blocca tutto. E scusa, anche... ma che bisogno c'è anche del registro elettronico? Non si può scrivere la lista dei sarebbe momenti. Più semplice, però deve essere tutto tecnologico. Il decreto profumo ha deciso appunto quando era ministro di istruzione l'informatizzazione, la dematerializzazione anche degli atti amministrativi delle scuole, quindi le pagelle, i registri. Insomma, certo integralismo questo. Comunque Roberto Carnero, tra le tracce di oggi ce ne sono varie, no? Per cercare di accontentare tutti, tu che cosa avresti scelto? Poi anche condividi questo tipo di, o continuano a essere un po' fuori dalla portata dei ragazzi, distanti e magari anche poco pertinenti con i programmi, no, che si seguono durante l'anno? Non direi, nel senso che per esempio il primo tema, quello di letteratura, la poesia di Quasimodo, Quasimodo insomma è un premio Nobel della letteratura, è un autore, non ci sono più i programmi ministeriali, ma esistono le indicazioni nazionali, ed è uno dei nomi, quello di Quasimodo, che è compreso nelle indicazioni nazionali, sono circa una ventina di autori del Novecento che potrebbero dovrebbero essere svolti durante, dovrebbero essere trattati. Poi sta agli insegnanti. Quasimodo forse effettivamente un po' uscito dal canone scolastico. Purtroppo sì, perché non l'avrebbe meritato. Insomma, ecco, ma questo, la polemica era sorta anche l'anno scorso con il testo di Magris, però c'è da dire che affrontare l'analisi del testo letterario non presume che uno conosca quella poesia può anche non conoscere quell'autore. Ma chi sa interpretarla. Però. Esatto, sì. Vengono messe alla prova, vengono testate delle competenze più che delle conoscenze, cioè la capacità di analisi del testo. Diciamo che la traccia fornisce tutti gli elementi, c'è anche una breve biografia e bibliografia di Quasimodo, quindi anche se è vero, ci sono dei documenti, no? Sì. Aspetta, mi dicono, fanno un segno di vittoria, non è proprio un segno di vittoria, è 2-2, cioè il Cile sta battendo 2-0 la Spagna. Ti dispiace, Roberto, per uscire dai... No, direi che la cosa non mi sconvolge. Non ti sconvolge, perché continui a Spagna o non te ne importa niente, anche giustamente, dei mondiali. Ma diciamo che in questi giorni sono appunto assorbito da quest'altra cosa che è più urgente, niente, importa niente, che la maturità. Lo apprezzo anche come uomo quando non importa niente del calcio. Comunque, Roberto Cardero, dicevamo, non so se poi i tuoi ragazzi e le ragazze seguiranno le partite, soprattutto quando sono tardi, forse conviene che vadano a letto presto, no? Come sempre. Beh, se arrivare riposati gli esami è la regola d'oro. Ecco, quindi, allora, diciamo, c'era questa un po' più classica della poesia di Salvatore Quasimodo, poi c'era tra le varie tracce anche il concetto di rammendo delle periferie di Renzo Piano, Archistar, Senatore a vita, eccetera. Sì, eccetera. È un tema, questo è un bel tema, perché poi è anche un tema in linea, questo tema delle periferie, anche con quanto dice per esempio Papa Francesco, no? È un elemento così che ricorre nella sua predicazione, all'attenzione appunto alle periferie, sulla anche in senso esistenziale, sulla non solo urbanistico, insomma, quindi è un tema molto interessante anche questo. Mi è piaciuto tra i saggi brevi quello sul dono, perché in fondo è un invito anche a riflettere sul nostro rapporto con gli altri, una società che si dice spesso malata di individualismo, è un tema che invita a pensare a come ci rapportiamo agli altri, anche perché era il dono in senso esistenziale quello che era il centro donare agli altri. Donare... E a questo proposito il messaggio di Rosetta, per esempio, che dice: io avrei scelto quello anche se non sarei stata capace di trattarlo nella forma richiesta, sono rimasta al vecchio tema. Esiste ancora, cioè c'è il vecchio tema o è sempre tema e basta? Questi saggi brevi in realtà forniscono una serie di documenti che sono appunto brani di autori, anche dei materiali iconografici, appunto le produzioni di quadri eccetera. L'errore che fa lo studente, che non dovrebbe fare, è quello di fare una parafrasi di questi documenti, invece direi che Rosetta farebbe bene a trattarlo come vuole lei, no? Nel senso che si utilizzano questi materiali, ma poi ci deve essere l'originalità dell'impostazione, se no diventa una cosa un po' così pedissequa. Ma voi l'avete già esaminati a questo punto? No, abbiamo chiuso le buste alla fine della mattinata, domani c'è il secondo scritto, che varia a seconda del tipo di scuola, quindi greco al classico, matematica allo scientifico eccetera, si chiudono anche questa busta e poi alla fine dei due scritti le commissioni procedono alla correzione. Tu, e quindi cosa sarai, piuttosto clemente? Ma io in realtà devo, diciamo, supervisionare il lavoro dei commissari delle diverse materie, però ecco, l'orientamento, insomma, credo che sia quello, sempre valorizzare il lavoro che è stato fatto dai ragazzi, tenendo conto che io adesso vado a fare il presidente in una scuola, magari domani verrà come presidente della mia scuola, in una mia classe, un docente della scuola dove sono io oggi, quindi insomma c'è anche una reciprocità di attenzione. Ma al di là di questo, che non, si tratta appunto di valorizzare il lavoro dei ragazzi, credo che nessuno abbia delle intenzioni punitive nel giorno della maturità. Senti, mi pare che leggevo che la traccia che è stata più scelta è quella, lo si può immaginare, quella anche forse più vicina ai ragazzi di adesso, no? La tecnologia pervasiva. Perché poi parlavamo proprio prima del come si chiama? dell'elenco del registro elettronico, del registro, sì. Come veniva adesso, lontana dal registro, da parecchio dal registro elettronico, e quindi è pervasiva veramente in tutti i sensi. Sì, no? Sì, è perché i ragazzi vivono continuamente connessi, anche in maniera a volte eccessiva, no? E quindi forse su questo avevano delle esperienze personali da riferire. Stiamo per chiudere, Roberto Carnero, dai un consiglio per domani, per la prova che ognuno farà a seconda della propria scuola. Tranquillità, serenità, non serve studiare la notte prima, perché questa è la sintesi di un percorso di 5 anni, e quindi insomma non conviene arrivare, appunto come dicevo prima, riposati e rilassati e sereni all'esame. Lì si parrà la vostra nobilitate, no? Esatto, ecco, come direbbe il sommo poeta. Grazie Roberto Carnero. Grazie a voi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Quindi avete sentito, fra le notizie ultime, questo secondo gol del Cile sulla Spagna. Speriamo che non sia la disfatta definitiva, però riprendendo le altre notizie, Renzi dice siamo a un passo dalla chiusura dell'accordo sulle riforme, con Berlusconi che dice rispettiamo gli impegni ma gli chiede anche un passo sul presidenzialismo. Intanto si forma il gruppo europarlamentare Farage-Grillo. E poi Baghdad, sempre più nel caos, che chiede agli Stati Uniti di intervenire con dei raid aerei. Si rafforzano i venti di guerra nel paese, adesso ci sono le raffinerie nel mirino in Iraq. E poi questo scontro tra governo e il commissario Tajani per l'apertura della parte dell'Unione Europea di una procedura di infrazione sui debiti della pubblica amministrazione. Ne abbiamo appena parlato nel tema di maturità, Quasimodo, le periferie di Piano e anche la violenza non violenza nel Novecento, e poi il tema che più è stato scelto dagli studenti, la tecnologia pervasiva. Adesso però ci occupiamo di Europa, proprio di questo scontro tra governo e vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, commissario in scadenza per l'apertura della procedura di infrazione. Le critiche, l'avete sentito, Del Rio dice è stato mosso da motivi politici. Sentiamolo intervistato da Deborah Rusciani. Europa 24 notte. Verso le europee. Oggi la Commissione Europea, quindi il collegio dei commissari, ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia perché l'Italia non rispetta i tempi fissati dalla direttiva europea recepita in legge della Repubblica Italiana, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di pagare i propri debiti entro 30 o 60 giorni. La denuncia che mi ha spinto a avviare una procedura di urgenza è quella della Banca d'Italia del 30 maggio di quest'anno, è la relazione presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, nella quale si dice che l'Italia viola il diritto comunitario, perché la Banca d'Italia scrive testualmente, leggo, nel 2013 sulla base delle indagini campionarie si può stimare che i tempi medi di pagamento delle amministrazioni pubbliche siano stati pari a circa 180 giorni, in lieve riduzione rispetto al 2013. Quando pagina ricordiamo 100, invece dovrebbero pagina essere 162 della relazione della Banca d'Italia. Io non so se il ministro Padoa-Schioppa ha parlato. È come dire un'ammissione di responsabilità. Beh, è una denuncia, io devo intervenire, è mio dovere. Ovviamente il ministro Padoan, perché ne abbiamo evocato un altro che non era da evocare, no, le è venuta un refuso, ha detto Padoa-Schioppa. Quindi abbiamo capito chiaramente. Padoan evidentemente non ha letto la relazione annuale della Banca d'Italia, ma lui quando polemizza si riferisce ai debiti pregressi della pubblica amministrazione, cioè quelli prima dell'entrata in vigore della direttiva. Della loro norma, certo. La procedura di infrazione riguarda la nuova norma, quindi non c'entra nulla. Che portata ha una procedura di infrazione, commissario Tajani? Che conseguenze anche? Perché se sono così arrabbiati, appunto, c'è anche da dire che ormai le elezioni sono superate, per cui non è neanche più campagna elettorale. Ecco, una procedura di infrazione. Adesso il governo italiano credo abbia qualche settimana di tempo per rispondere. Due mesi di tempo per rispondere. Poi dopo ci sarà un altro intervento, il parere motivato. Dopo l'Italia avrà altro tempo per rispondere. rispondere, dopodiché la Commissione, se l'Italia non darà risposte soddisfacenti, cioè non avrà cambiato la situazione, cioè le imprese non verranno pagate nei tempi previsti dalla legge, si andrà alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia prenderà una decisione e qualora non venga rispettata dall'Italia la decisione ci sarebbe una multa. Ma il mio intervento non è finalizzato a far pagare la multa all'Italia, il mio intervento è a tutela delle imprese e dei lavoratori, perché l'avvio della procedura di infrazione, che segue già una serie di lettere, di messaggi, che si chiamano UPAR, cioè di avvisi, che non sono stati ottemperati dall'Italia. Sì. Bene, questo permetterà all'Italia di cambiare la situazione e quindi anche di risparmiare denaro. Perché? Perché la direttiva comunitaria recepita con legge della Repubblica Italiana dice che ogni pubblica amministrazione che non paga entro 30 giorni, dal 31esimo giorno deve pagare una mora dell'8 certo. oggi 15%. Quindi questa lettera di messa in mora aiuta l'Italia, permette all'Italia di risparmiare denaro. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ma colleghiamoci subito con Dario Ricci in Brasile per capire davvero se la Spagna non ha chance. Dario? Che è successo in Spagna? Ma no, certo, questo per carità. Non disperiamo fino alla fine, però. Dimmi tu, posso dire? Parla pure, ne hai facoltà, Dario, certo. Grazie. Dico, mai dire mai, però certo il 2-0 del primo tempo con le reti di Vargas e Aranguiz di fatto spinge la Spagna fuori dal mondiale, sarebbe una rimonta clamorosa. E così come capitò a noi a Sudafrica 2010, la squadra campione, noi appunto venimmo eliminati al primo turno, ma almeno ce la giocammo fino alla terza partita. La Spagna sembra già pronta a salutare il Brasile appena al secondo match, cara Roberta. Ma secondo te quali possono essere le cause di una squadra che dovrebbe essere ben al di sopra di questi risultati, no? Ma sicuramente da un lato la qualità degli avversari, perché sicuramente il girone della Spagna insieme al nostro era il più difficile di questa prima fase, perché l'abbiamo vista, è una big d'Europa, il Cile è sicuramente una delle formazioni sudamericane più quotate, e poi il logorio di un ciclo forse irripetibile e il passare degli anni di molti giocatori che chiaramente inevitabilmente vivono anche una parabola discendente. Invecchiano anche loro i calciatori. Senti, questi 24 secondi riesci a fare un sunto della conferenza stampa di Prandelli? Di Thiago Motta, sì, di Thiago Motta mi sarà più facile, perché lui che ha parlato in conferenza stampa, lui italo-brasiliano, ha detto che vedremo il Costa Rica come una finale, e sono felicissimo di vestire questa maglia, nessuna nostalgia per il Brasile che non è la mia nazionale. Va bene, insomma, guardiamo avanti allora, guardiamo adesso, anzi prima di tutto, grazie Dario Ricci, ci aggiorniamo ancora domani sulle prossime partite, anche perché poi domani sarà la vigilia della partita italiana, tra poco.